allor ch'avrò dal trono l'empio balzato, usurpator del regno, allor sarò te scuor dei tuoi più degno. E se piacer ne vuoi, la destra tua porgimi pria. Sì, per Gilda, eccola. Ma che fa, Dorispe, oh Dio, così pure favella entro il cor mio. Oh, di mia Gilda, finché tutto ad amor non cede il loco, l'ira del petto mio, finché di Marte non s'acchete il furore, arder mal puote di Giocondo Imeneo, tranquilla face, splenderò allor che ci ameremo in pace. Thank you. adorata Dorisbe, pria che a pro della patria spargasi in questo giorno il sangue mio, dammi l'ultimo addio. S'altro non chiedi, facile compiacerti, in van germano tu favegli Dorisbe, sparge il vento i sospiri e dammi in mano. Ergilla, mi trafiggi, mio bella, perché? Basta per ora, io lo dirò. Perché ne arco ad ora? Lumi che sento mai, possibil fia che abbia il cor di Dorisbe a un ignoto stranier posposto Argeno, ma un disperato amante potrebbe ancor di tua ripulsa donta vendicare il disprezzo. Di se mi guisa mavelli Argeno, che piace pretendi e che servi nel cuore il desio giovanile e non amore. Thank you. Sangue ad orisbe piacer, come potrei? Oh, semplice che sei, ama tanto la donna quanto spera, servar la fede ad un amante istinto non è usata virtù, se cade hai vinto. Thank you. oggi esporla per voi. Secondi ciel pietoso, la tua destra, il tuo cuore. E se tu sei scelto da sommi dei liberator del un traflitto regno, tu ne sarai il learco, il suo rege, il suo padre, il suo sostegno. Ahimè, learco Ernesto, nomi che fia di noi, per chi duriste, agitate confusa. O tei che avvenne, vicin quelle invidie abbiamo inondar le selve e i prati di poderosi armati. La novella funesta passò di voce in voce, e fra la turba delle pavide genti altro non suone che sospiri, che pianti e che lamenti. Chi parte, chi ritorna, chi fugge dal perio, chi cerca il padre e chi nasconde il figlio. Vedrai fra poco squarciar destra divina dell'altre nobili filo. Learco il duce, e per noi pugna il cielo. Oh. momento me curesto le arco. Il tempo, amico, sai che passa veloce. Forse maggior contrasto troverà l'amor tuo che la tua gloria. Amo Dorisbe anch'io. Oddei, che miro! Germano, a che quel branco? I nostri torti a vendicar. E chi era incontro? Audace quest'ignoto straniero mi contrasta Dorisbe. Ardisce il cambio ricusar di tue nozze. E ciò fia vero, parla, via, ti confondi. Misero me. Non parli e non rispondi. Ti intendo, o traditor. Come? Tu Ergilda traditora le arco? Sì, all'indegno che mancò mi di fe. Oddio, che stento, mendace, mancator. Questo è tormento. Via, ma tua infedeta niega se puoi. Se io mi rassembro ingrato, non è già colpa mia. Fato, sorte, destino, son nomi vani, e che non m'ami più, questo spietato è il tuo vero destino, questo è il tuo fato. Se mi vedesse il cuore con tanti insulti, non apria la mia fe. Spero e giuro, ingrato, forse non mi direste. Ecco Ergilda, Dorisbe, il stato mio. Oh,